538. Costolette di vitella di latte alla milanese. Tutti conoscete le costolette semplici alla milanese, ma se le aggradite più saporite, trattatele in questa guisa. Dopo aver denudato l'osso della costola e scartatine i ritagli, spianatele con la lama di un grosso coltello per allargarle e ridurle sottili. Poi fate un battuto con prosciutto più grasso che magro, un poco di prezzemolo, parmigiano grattato, l'odor dei tartufi se li avete, e poco sale e pepe. Con questo composto spalmate le costolette da una sola parte, mettetele in infusione nell'uovo, poi panatele e cuocetele alla sauté col burro, servendole con spicchi di limone. Per 5 costolette, se non sono molto grosse, basteranno 30 grammi di prosciutto e 2 cucchiaiate colme di parmigiano.